questo acronimo APE sembra un po' lo slang milanese per l'aperitivo, no? Che sei anche abbastanza in linea con come dire, il gergo di Renzi. O anche Vespe, ve lo do io la pensione. Per esatto. Per parlare di questo tema e anche altri connessi al mondo del lavoro, siamo al telefono con Marta Fana, ricercatrice dell'Istituto Studi Politici di Parigi, che saluto. Buongiorno Marta. Buongiorno a te e a tutti. Allora, questo APE, insomma, queste misure, come giudicarle? Ma innanzitutto c'è un impianto proprio di come si vuole riformare questo le pensioni, che non si può giudicare positivamente, ovvero in qualche modo si privatizza la responsabilità di quando e come, no, con quali costi i cittadini dovranno andare in pensione. Questo sostanzialmente per non fare un torto né alla Fornero e quindi rimettere in discussione quell'impianto lì, né tantomeno a quello che in qualche modo il rapporto rispetto alla legge di stabilità che abbiamo con l'Europa, perché questo bisogna dirlo, in realtà il fatto di dire che i pensionati, coloro che scelgono di andare in pensione prima del momento legale, devono passare tramite le banche e quindi le assicurazioni attraverso, no, l'accensione di mutui e quindi un'assicurazione sul mutuo, solo e esclusivamente perché in realtà in bilancio lo Stato per cassa non può scrivere, no, in realtà sul bilancio, diciamo, pluriennale, ok, non si può dare questa misura di finanza pubblica, no, di spesa pubblica. Perché? Perché l'Europa guarda il bilancio di cassa, ovvero quanto quest'anno questa misura graverebbe sulle casse, che in realtà è quasi una presa in giro, perché appunto se pensiamo alla stabilità, che è una questione di medio termine, non poter imporre una misura quest'anno soltanto per un principio di cassa, una cosa meramente contabile, quindi coinvolgere banche e assicurazioni che ne trarranno profitto, è già un problema di per sé. Quello che però c'è da dire è che innanzitutto non c'è un accordo firmato con i sindacali, ma soltanto un verbale d'intesa su quelli che saranno gli obiettivi. Venendo, diciamo, ai punti dettagliati, al di là dell'APE, perché poi tutta la questione non era sull'APE in sé, quanto con i sindacati, quali erano queste categorie da proteggere, quindi su cui non far incidere il taglio delle pensioni e eventualmente i costi assicurativi. Quello che si legge è che, per esempio, sui lavoratori precoci, che sono quelli che hanno cominciato prima dei 19 anni, che quindi hanno delle carriere lavorative molto lunghe, questo avverrà se solo se o sono disoccupati lungo periodo o sono invalidi o fanno ancora dei lavori gravosi. Quindi in realtà sembra come a dire sì, vi aiutiamo, ma tanto avete già un piede nella fossa. Un'altra cosa, secondo me, aberrante e pericolosa che contiene questo verbale è RITA, di acronimi ce ne sono tanti, ovvero la detassazione, comunque un regime fiscale agevolato per quella che è i sistemi previdenziali complementari, ovvero chi vuole andare prima in pensione può dire, come fu per il TFR, guardate, io mi riprendo i soldi della gestione complementare, no, del sistema integrativo complementare, e man mano quindi in quel modo faccio reddito per coprirmi fondamentalmente l'assenza di ammortizzatori sociali tra il periodo che intercorre tra la scelta, no, di andare in pensione e di smettere di lavorare e quello che mi darebbe invece il momento della pensione effettiva. Qui in realtà torna appunto, secondo me, questa questione dell'impianto generale, ovvero i cittadini dovranno sostenere su di loro i costi in qualche modo di un'uscita anticipata, e quindi non ci sarà neanche più il ruolo dello Stato di dire riequilibro questa situazione, anche per mettere una pezza a quella che è la riforma Fornero. Sì, si è poi parlato di fase 1 e fase 2, nella fase 2 arriviamo sempre ultimi i giovani e le carriere discontinue, come sottolineava la Camusso. Sì, su questo tra l'altro voglio dire, tutti questi numeri, anche i 6 miliardi, in realtà andranno poi visti, cioè si dovrà verificare che in legge di stabilità questi soldi ci siano, perché è vero che magari quest'anno dicono, in realtà fino a pochi giorni fa si parlava di 1,5 miliardi per il 2017, 1,5 miliardi per il 2018, quindi no, spostare sì nel 2019 poi vi diamo il resto, boh, tutto da verificare, queste rimangono sempre promesse. Dall'altro lato la questione delle carriere discontinue è fondamentale, perché dentro il regime della riforma Fornero per noi precari, cioè, non c'è spazio, possono fare tutti i correttivi che vogliono, ma l'impianto rimane quello. Se noi continuiamo ad avere contratti con una bassissima contribuzione o, se vogliamo, voucher uno dopo l'altro, sicuramente non c'è correttivo che tenga, perché fondamentalmente non abbiamo la contribuzione. Cioè, 10 anni di voucher fanno un anno di pensione quasi. Certo, ecco, come dire, sembra che il quadro che emerge sia quello lavorare e crepare, appunto. A questo punto io mi ricollego invece a un altro tema che è affrontato recentemente anche su un lungo e bello articolo pubblicato da Internazionale, che riguarda il settore della logistica, ma più in generale la trasformazione del mondo del lavoro. Veniamo da questo omicidio di un lavoratore a Piacenza, e ha riaperto un tema che in realtà è quello della logistica, dove, diciamo così, è il laboratorio dello sfruttamento per antonomasia già da alcuni anni. Ci sono due parole chiave che tu hai utilizzato, secondo me, in questo articolo, che sono l'identità basata sul consumo di tutti noi e anche il tema della riproduzione sociale. Sì, quando appunto ci riferiamo a un articolo scritto con Simone Fana, che è poi mio fratello, parliamo di identità basata sul consumo e proprio in qualche modo come l'economia si svolge oggi, no? Ovvero quello che interessa, quindi sia al lato della produzione che poi a quello in realtà sociale, è questo consumo, cioè essere in grado di consumare per dimostrare qualcosa, quindi, cioè portare all'estrema razza quello che era l'idea del consumismo, nonostante però l'impoverimento, cioè di fasce sempre più ampie di lavoratori che poi sono anche i consumatori. Quindi in questo senso lo status sociale viene dato, quindi legittimato in qualche modo dalla possibilità di consumo, che però in realtà a me viene una battuta, perché leggevo uno studio di due colleghi francesi secondo cui in India oggi la gente si priva e non riconosce quella che è invece in qualche modo il diritto a dei beni di base come la casa, la scuola eccetera, per poter consumare in modo edonistico e quindi mostrare di essere, no, quella piccola classe media di riferimento. E questo è un problema, perché in realtà poi appunto nell'ingordigia del consumo, la chiamerei io, si crea proprio una vera frattura tra quello che è il momento della produzione, quindi cosa e come si produce, e il momento del consumo, quindi il consumare velocemente, non avere intralci, che sia tutto in tempo e soprattutto in sconto, perché appunto quei lavoratori si stanno impoverendo, e quindi i lavoratori, i consumatori, che poi in realtà sono anche lavoratori spesso, non si chiedono come e quale processo c'è dietro alla spedizione gratuita per quanto riguarda il settore della logistica, o ai pomodori a 1 euro al chilo quando invece voglio parlare di caporalato. E questo fa sì in realtà che appunto ci sia proprio una sconnessione, non si capisce che questi prezzi si abbassano perché dietro c'è una compressione di costi che da un lato può essere data all'automazione, ma in determinati settori, infatti facevo riferimento sia al commercio del taglio, alla logistica e in qualche modo all'agricoltura, ma anche se vogliamo a quello che è l'economia e il consumo cognitivo, dipendono da una contrazione dei costi che si abbattono proprio sul lavoro e sui lavoratori. E in questo la logistica si pone proprio come avanguardia, perché in realtà è come se fosse un basso fondo della produzione che tutti pensano essere un momento residuale di questo processo, ma in realtà non lo è, fa il 10% del PIL europeo soltanto la logistica. Quando invece, e quindi questo un po' si collega quando invece discutiamo di riproduzione sociale, perché? Perché appunto questi lavoratori qui, che sono proprio i più sfruttati, quasi in condizioni di schiavitù, hanno una, in qualche modo vengono esclusi, quindi sono trattati come lavoratori da cui estrarre plusvalore in ogni momento, quindi aumento delle ore lavorate, condizioni, diritti e salari da fame. Dall'altro lato però è talmente alta in qualche modo l'estrazione di plusvalore che per questi soggetti qui, no, è come se non ci interessasse quell'altra dimensione del lavoratore, ovvero quello del tempo libero e della possibilità di consumo, no? C'è una netta, di nuovo, separazione tra chi produce, neanche in termini di lavoratore, e chi consuma. Quindi in realtà è come se noi dicessimo: quelli lì sono dei cittadini di serie B, non ci interessa se crepano e se non riescono a consumare, se non hanno le possibilità sia materiali, ma se vogliamo anche, no, di salute. E poi c'è una fascia sempre impoverita, perché poi il problema è quello, che riesce a consumare. Quindi in qualche modo la riproduzione sociale diventa quasi, non voglio dire elitaria, ma ristretta a una fetta della società e non a un'altra.